Do il benvenuto ai microfoni di Raggitta Fujiko a Pasco dei Joy Cat, che è in collegamento telefonico con noi per parlare della loro prossima uscita, ovvero l'attesissimo album che uscirà il 5 giugno. Ciao Pasco, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Il 20 maggio avete presentato in anteprima il vostro album al Mambo, il Museo di Arte Moderna di Bologna, all'interno della Sala delle Ciminiere, con un'installazione sonora titolata Into the Blue. Io vorrei partire un po' da questa giornata, anche poi per ricollegarci all'uscita di questo album il 5 giugno. Come mai la decisione di presentare in maniera così inedita, con diciamo un'installazione sonora, il vostro album? Allora, questo è un album particolare per noi perché, al di là del fatto che negli ultimi anni siamo stati impegnatissimi, abbiamo fatto delle cose straordinarie rispetto a quello che poteva essere il nostro potenziale, quindi siamo cresciuti tanto, ci siamo misurati, ma non avevamo più pubblicato discograficamente, così si vuol dire, un album vero e proprio, seppur alcune delle tracce le avevamo comunque portate ad una soglia di suono, performandole in giro ovunque, per cui erano parte delle nostre corde. Detto questo, non avevamo ancora pubblicato nulla, ecco, per cui se vai a guardare il penultimo album è datato 2013 e se conti gli anni sembra che sia passata una vita intera, quindi 9 anni di attesa per un album. Sono tantissimi, ecco perché questo album meritava una celebrazione speciale. E tra l'altro i contenuti dell'album sono dei contenuti molto profondi per noi, tessuti di esistenza pieni, con procedure anche di lettura della realtà molto intime, molto personali, per cui c'è dentro il saluto delle persone care, c'è dentro la celebrazione di nuove vite che vengono, arrivano. C'è dentro il nostro viaggio, il nostro percorso, il nostro essere cittadini del mondo, c'è dentro tutta una serie di riflessione molto delicata, ecco, tocca dei temi spesso tenuti nascosti. Non sarebbe bastato un semplice annuncio, ecco, avevamo bisogno di far immergere dentro questa sorta di dimensione il fruitore, ecco, quindi volevamo che si capisse fondamentalmente in maniera netta l'urgenza creativa ed urgenza anche dialettica che c'è dentro questo lavoro, questa avventura. Per cui l'idea di immergersi nel blu era proprio l'idea di far immergere le persone dentro un elemento vivo, organico, multipercettivo, come dicevi. E l'idea anche di spostare il classico lettore identificativo di una band dal palco di un club dentro un altro elemento che a me è molto caro, no? Quello dell'arte performativa, quello della sinestesia con altri linguaggi. Per cui il museo d'arte moderna o un museo d'arte contemporanea potevano essere insieme, congiuntamente, l'uno distante dall'altro, dei luoghi deputati, ecco. E quindi abbiamo presentato un progetto che è piaciuto, abbiamo avuto la fortuna che ci fosse uno spazio e quindi poi abbiamo abitato questo spazio e lo abbiamo costruito tenendoci dentro tutte le caratteristiche narrative dell'album, tutti gli elementi, ecco, anche estetici che lo caratterizzano, oltre ai contenuti che ci portiamo dietro da sempre e che in questo album in particolare emergono in maniera forte. Mi riferisco alla crisi umana, quindi anche quella ambientale, mi riferisco al concetto profondo della trasformazione del tempo che passa, al distacco da parte dell'umano rispetto alla civilizzazione, quindi al tema del progresso, al tema dello sviluppo, se siano la stessa cosa, se possono andare insieme, chiaramente anche alla fascinazione del sogno, al viaggio inteso come introspezione, introversione e soprattutto alla ricerca negli anfratti nascosti delle vulnerabilità. Questo è un disco dedicato a tutte le vulnerabilità, dedicato a tutti quelli che non vengono visti, quelli che sono in qualche modo spesso considerati invisibili. Questo è un tema che si è ripetuto ultimamente e che nel nostro album invece è centrale. È un album diviso in 4 atti, perché 4 sono le fasi del titolo, una specie di haiku contemporaneo. La distanza è molto complessa, composita, ci sono 76 minuti di ascolto, quindi è un album che non, difficile da pubblicizzare, da promuovere, difficile da mettere sul tavolo. Ecco, bisogna davvero sentire la necessità di ascoltarlo, anche perché siamo in una dimensione piena di musica dove ogni giorno, ogni secondo escono centinaia di migliaia di tracce. Non c'è bisogno che esca un nuovo album dei Joycat, a meno che non vi sia dentro un sostrato, un sentimento davvero autentico, reale, che possa rappresentarsi come una traccia, una fotografia di questo tempo autentica. E quindi questo è stato il nostro percorso, questo è stato il nostro tentativo, è un saggio, un assaggio della realtà, e dentro c'è sicuramente la fotografia di un'esistenza, di una vita, che poi può piacere o meno. Per cui il fruitore è chiamato a sforzarsi molto, non c'è un menù, non siamo noi che diamo la ricetta, c'è soltanto la volontà di chi vuole ascoltare quest'album di poter comprenderne il potenziale, che è profondissimo, è un abisso, ecco perché c'è il blu dentro. Dopodiché nel momento in cui viene pubblicato è una creatura in mano non più nostra, e noi speriamo che qualcuno possa prendersene cura. Pasco, io ti ringrazio. Grazie, vi auguro una buona fortuna per questa nuova uscita e speriamo di risentirci presto.